bentornati ad un nuovo appuntamento dei podcast di Rivista Militare. L'articolo di oggi, tratto sempre dal numero 3 del 2021, si intitola L'operatore cyber dell'esercito, formazione e addestramento di Luca Iuliano. L'esercito ha avviato un iter ad hoc capace di formare da zero in 10 mesi la figura professionale dell'operatore cyber militare, una figura in grado di pianificare e condurre operazioni in ottica multidominio, attraverso e nel cyberspace, sia dal punto di vista prettamente tecnico cyber, sia dal punto di vista delle relazioni con gli altri domini. Lo sviluppo esponenziale delle telecomunicazioni e il sempre maggiore ricorso a strumenti informatici per il raggiungimento di obiettivi militari ha rafforzato la relazione esistente tra spazio cibernetico e mondo fisico, con inevitabili effetti sulle operazioni. Tale relazione ha assunto un ruolo così importante che la NATO, durante il summit di Varsavia del 2016, ha riconosciuto il cyberspace come il quinto dominio delle operazioni. La nascita di questo nuovo dominio ha richiesto naturalmente di adeguare lo strumento militare anche alle nuove potenziali minacce che ne derivano. Il processo di digitalizzazione che negli ultimi anni ha investito ogni settore, sia pubblico sia privato, ha raggiunto un livello tale da influenzare non solo il comparto industriale, ma anche tutti gli altri aspetti della società, compresa la difesa. La quarta rivoluzione industriale, esplosa agli albori del XXI secolo per mezzo della digitalizzazione progressiva delle imprese e della connessione logica degli oggetti, Internet delle cose, oltre ad incrementare la velocità e l'efficienza del settore produttivo in cui si è sviluppata, ha introdotto una serie di cambiamenti significativi nella politica, nel sistema economico e nel tessuto sociale, tali da richiedere un vero e proprio processo di adeguamento. Sebbene la componente tecnologica ricopra un ruolo centrale, quella umana risulta essere altrettanto cruciale. Pertanto, formazione e addestramento di altissimo livello continuano a rappresentare la chiave del successo nella condotta delle operazioni anche in questo nuovo contesto. Il processo di sviluppo della componente umana, quindi, richiede la concezione e la formazione di nuove figure professionali in grado di fronteggiare la minaccia cibernetica e mantenere il controllo sul nuovo dominio per garantire l'iniziativa, preservando la libertà d'azione e, conseguentemente, la libertà di manovra delle unità. Il principio cardine è stato quello di un DNA dell'operatore cyber, che tenga conto del comparto accademico per la ricerca scientifica e del comparto industriale per le nuove tecnologie, ai quali affiancare la visione militare, con tutta l'expertise tecnica maturata e consolidata negli anni. Tuttavia, per creare un iter efficace è stato necessario analizzare le tecnologie che compongono la porzione cyber del contesto delle operazioni e che, a causa della loro eterogeneità, lo rendono di così difficile comprensione. Pertanto, con il lavoro sinergico del Dipartimento Impiego del Personale e del Reparto Sicurezza Cibernetica del Comando Trasmissioni, la scelta è stata quella di istituire un processo di internalizzazione della formazione. È stato quindi individuato personale con un elevato livello di preparazione, non solo nell'ambito tecnico cyber, ma anche nelle capacità comunicative ed insegnamento, al quale è stato assegnato il compito di approfondire e armonizzare i 3 elementi alla base del principio ispiratore del DNA dell'operatore cyber dell'esercito. con una rielaborazione delle principali nozioni di insegnamento mutuate da istituti di formazione civili, tenendo conto dei prodotti realizzati dall'industria, il comando trasmissioni ha raggiunto lo scopo di redigere un percorso formativo che è essenziale con un corso Cyber Core di 4 mesi, con lo scopo di fornire le nozioni indispensabili per affrontare la complessità del dominio e una successiva fase di specializzazione di 6 mesi che prepara il personale su ciascun settore cyber per le attività di cyber defense, operatore di primo livello, e per le cyber operation, operatore di secondo livello. Continua, finalizzata a mantenere un livello d'eccellenza sia nelle materie già oggetto di formazione essenziale, sia in quelle emergenti. Al termine della formazione, a seconda del settore di specializzazione, si consegue la qualifica di operatore cyber di primo o di secondo livello in Information Technology, afferente al mondo delle reti informatiche, dei suoi dispositivi e dei suoi protocolli, Operational Technology, afferente al mondo dell'automazione industriale e dei Supervisory Control and Data Acquisition, Disruptive Technology, afferente allo studio dell'impatto delle tecnologie emergenti sull'ambiente operativo, quali intelligenza artificiale, 5G e computer quantistici. Information Collection, afferente ai nuovi mezzi e ai nuovi elementi tecnici da introdurre nella raccolta informativa. Cyber Command Staff e Forensic Operation, afferente allo sviluppo delle capacità necessarie per operare all'interno dello staff del comandante in operazioni, per la pianificazione e condotta delle operazioni multidominio e delle attività forensi. Il primo corso di operatore cyber di primo livello, erogato dal reparto sicurezza cibernetica, è stato a favore del personale dei Computer Incident Response Team per aumentare la capacità di cyber defense della rete EINET, ma ad affiancare lo sviluppo delle capacità vi è anche un addestramento costante con esercitazioni interforze e multinazionali, con l'intento di misurarsi e condividere conoscenza con gli altri attori internazionali. La vastità della materia, infatti, unita alla velocità con cui la stessa evolve, ha reso necessario suddividere il cyberspazio in diversi ambiti e associare a ciascuno di questi figure professionali specifiche.